È stato un conduttore di Hollywood Party ed è stato un inviato speciale di una trasmissione su Radio Onda Rossa che si chiama Visionari. E lui faceva l'inviato speciale quando partiva, andava a qualche festival e si spostava per andare a vedere i film. Veniva chiamato e lui faceva tutti quanti i suoi resoconti.